Ad alta voce, Monica Piseddu legge Il gioco dei regni di Clara Sereni. Dodicesima puntata. A Portici, dove studia scienze agrarie, Mimmo per la prima volta è padrone della propria vita totalmente. Enrico vive ora a Napoli, dunque a una distanza minima di chilometri, che però la diversità delle scelte dilata. Libero nelle letture, negli orari, nelle spese seppure controllate, Mimmo si impone tutti i limiti dell'ortodossia religiosa e le sue energie non subiscono dispersioni. Si tiene stretto alle sue pratiche di devozione, precise fino all'ossessione. Se ad Enzo è sufficiente cambiare il mondo, Mimmo avverte invece il bisogno di un obiettivo assoluto, totale. Una rete che lo aiuti a tenere insieme i suoi pezzi. L'ebraismo, cultura e religione, identità e politica, popolo e nazione, gli appare il luogo di tutte le risposte. Benché la Palestina non sia il suo progetto e pensi invece di restarsene in Italia, dopo i soldatini, le letture e le gite, Manlio ha condiviso anche la scelta di Portici. Abitano insieme frequentano le osterie per studenti dove Mimmo compie equilibrismi per conservarsi kasher. Insieme si inerpicano sui tetti per ammirare la reggia e il golfo più in là. Nelle esplorazioni sul campo, misurazioni degli appezzamenti fertili dei campi flegrei, ricognizioni di terreni dell'interno rocciosi e riarsi, Mimmo, sempre qualche passo avanti a lui che zoppica un poco, talvolta da sopra un'altura si volta a incoraggiarlo. «Avanti, popolo!» gli grida. E nello sfottò c'è la colpa di quella gita insieme, quando Manlio cadde per un'imprudenza comune e il prodigarsi di Mimmo non valse a restituirlo indenne. Ma di niente, così pare, Manlio si offende. Mimmo è per lui come un vento forte o un sole che brucia, una forza della natura di fronte alla quale non si può che inchinarsi o fuggire. Dei sionisti che riempivano la casa di sua madre, Xeniuska proprio non faceva alcun conto, anzi si prodigava in ogni modo per cancellarli dalla propria vita, benché gli occhi febbrili dell'uno, o l'andatura di un'occolata dell'altro, o la distratta cortesia di un altro ancora, le procurassero talvolta qualche fremito, inatteso e immediatamente negato. Dopo discussioni, scontri e molte parole amare, la madre, per parte sua, non tentava più di dirigerle la vita, di orientarne le scelte, di coinvolgerla nelle proprie passioni. E le giornate scorrevano via meno complicate, ora che ciascuna aveva un proprio bozzolo nel quale rinchiudersi. Gli attriti restavano nelle occhiate. Quelle di Xeniuska per il disordine della casa, per l'odore di fumo e cibo che spesso vi ristagnava, per i libri sparsi dovunque a raccogliere polvere. E quelle di sua madre, per i borghesucci ai quali lei s'accompagnava, colleghe e colleghi di lavoro con cui si ostinava a voler stringere, se non amicizia, rapporti di consuetudine. Infuriata per una di quelle occhiate, una domenica Xeniuska per ripicca rinunciò ad una gita in automobile e tutta la mattinata se ne stette lì, immusonita, a gironzolare per la casa. Come un moscone, muta ed insistente, e con il ronzio dei movimenti. E a Xenia un gesto della mano non bastava a togliersi l'incomodo. Avrebbe voluto chiudersi in un libro, ma quell'agitarsi ininterrotto della figlia, irritandola, la costringeva a distrarsi. Sfinita dalla noia, Xeniuska sta per proporre a sua madre di fare qualcosa insieme, di uscire magari, ma Xenia non è a sua disposizione, non lo è mai stata. E già il campanello annuncia una visita delle solite, qualcuno venuto a discutere di politica o altre barbosità. Nell'ingresso, piccolo e ingombro, Enzo e Mimmo, minuti, con gli occhiali, i capelli spettinati, la riga dei pantaloni mal stirata come sempre, certe camicie fruste che neanche il fattorino dell'ufficio porterebbe. Xeniuska con loro ritiene di non aver niente in comune. Sempre la politica hanno in bocca quei due. E per le solite cose, certamente, sono venuti anche oggi. E invece propongono una passeggiata. A Xenia. E, solo per cortesia, anche a lei. Sua madre ha male alle gambe e delle melanconie. Preferisce restare in casa. Per una sfida oscura, alla madre, a se stessa, alla noia, Xeniuska accetta l'invito. Vanno via euforici, uniti da un comune sentimento di sconcerto. Xenia, per una volta, riesce a tenere per sé le proprie occhiate. Allegri sono ancora quando comincia a piovere. Il cornicione di un palazzo li copre a sufficienza, ma poi il vento, un'ira di Dio d'acqua senza scampo. La casa di via Cavour, dove ripararono in gran fretta, fu per Xeniuska una gran sorpresa. La trasandatezza dei fratelli, quella loro aria sempre come affamata, mai le aveva fatto supporre la famiglia con servitù. I bei mobili solidi, il pianoforte, i tappeti, quel mondo di agio che ogni particolare sottolineava. Senza ostentazione, come accade a chi al benessere è abituato. Il bello orologio da tavolo, d'ottone dorato, seminascosto in una custodia di pelle rovinata, gli argenti tutti un po' ammaccati dall'uso e certo non lucidati di recente, l'albero genealogico ordinato da Pellegrino in Inghilterra a testimoniare di glorie commerciali e orgoglio di sé, ma in un angolo buio, lontano dagli sguardi più frettolosi. Fu presentata ad Alfonsa, il cui abito modesto di nuovo le confuse le idee. Più consona all'ambiente le apparve Ermelinda, con i suoi tanti giri di perle matte al collo e lo gibellino a scaldarle le spalle. I tentativi di conversazione abortirono presto. Troppo differenti erano le occupazioni, le abitudini e soprattutto le letture. Per diradare l'imbarazzo, Alfonsa chiese notizie di sua madre a Xeniuska, che le fornì, visibilmente senza entusiasmo. Per recuperare allegria, Enzo, sapendo di far piacere alla zia, pregò Ermelinda di suonare. Ma proprio da lei, che tanto le sarebbe piaciuto propiziarsi, Xeniuska si ebbe uno sguardo freddo di stupore quando annunciò di non saper cantare. Ermelinda comunque cominciò a suonare Cafottè era Cafottè, che era il suo pezzo di bravura più acclamato. Via via in ordine entrarono le voci, intonate e educate se non straordinarie, e la pioggia picchiava sui vetri e nella stanza c'era un bel tepore, i pavimenti erano lucidi di cera e la carta da parati rinnovata di recente. Seduta in punta di sedia, Xeniuska per quello sguardo aveva la faccia in fiamme, il piacere di star lì e insieme il volersi lontana le mille miglia. Con i piccoli impiegati poteva giocare la propria diversità per darsi fascino. Qui la sentiva come colpa e vergogna, nel confronto con quelle armonie così sicure di sé e fuori dalla sua portata. Chiusa in una galleria di ghiaccio, Xeniuska si pensa sola per l'eternità. Per quanti sforzi farà, sarà sempre o troppo in alto o troppo in basso per gli altri, e mai uguale. Ha una gran voglia di piangere, di nascondere la testa nel morbido dei cuscini ricamati e scomparire. Intorno a lei le voci si intrecciano ora in controcanti divertiti. Sforzandosi su un tono da basso che non gli appartiene, Mimmo le si avvicina e nella pausa della battuta le dice in russo: «È gelosa di te», con un sorriso lieve, appena accennato e così pieno di luce. Una vicinanza improvvisa, per l'uso di quella lingua dolce e agli altri ignota. Ermelinda alzò le mani dal pianoforte, si voltò per esigere attenzione e perché curiosa di quelle parole che neppure lei, pur poliglotta, poteva tradurre. Li vide inquadrati dalla lampada, isolati totalmente da rumori e presenze e, avendo per Mimmo un suo progetto, si preoccupò. Nella Bibbia gli iniziatori, i capi, quando diventano coscienti di sé e della propria missione, talvolta cambiano nome. Così Abramo, così Giacobbe. Benché la presenza di Enzo gettasse di continuo un'ombra di primogenitura ingombrante su di lui, accostandosi al sionismo, Mimmo pensò di aver trovato la propria strada. Perciò cercò nelle pagine della Sapienza ebraica un nome nuovo, che da quel momento gettasse luce sul suo destino. Scelse di chiamarsi Uriel. Uriel come l'angelo della luce, colui che ogni devoto ha di fronte a sé quando, prima di coricarsi, recita la preghiera che conclude la giornata. Nel nome del Signore, Dio di Israel, sia Michael alla mia destra, Gabriel alla mia sinistra, dinanzi a me Uriel. E Uriel come Uriel da Costa, marrano tornato alla comunità per cercarvi la pace e morto suicida per non averla trovata. Due possibilità, due vie. Ma non intendeva lasciare al caso la scelta. La sua volontà avrebbe condizionato le pieghe ancora morbide del futuro. Tutto preso da progetti concreti, Enzo non cercava simboli, non indagava oroscopi. Non si rifiutò però di tornare ad occuparsi per un momento di nomi, ora che il gioco dei regni inventato da bambini si avviava a tradursi in realtà. Accettò di chiamarsi Uziel per pigrizia, per assonanza, o per ribadire l'unicità del rapporto con Mimmo che si presentava ancora senza crepe vistose. Uziel, che significa «la mia forza è Dio», Uziel che fu un eroe guerriero, ma anche un poeta. Più tardi, quando capì di essere solo, Enzo scelse per sé un altro nome, comune fra gli ebrei e all'apparenza modesto. Si chiamò Haim, come Weizmann. Haim, che vuol dire vita. Per una bronchite, Xenyushka era da giorni a letto. Gli amici le portavano pasticche d'orzo per la gola ed essenze balsamiche, però raucedine e tosse non diminuivano. Fu sollecitato per le sue competenze Lello, che arrivò in casa non preavvisato, in un momento che aveva libero fra una visita e un esperimento. Xenyushka si vergognò della casa in disordine e povera, con gli odori di cibo che aleggiavano. Lello sfogliò un libro e le riviste francesi, piene di polvere, su cui Xenia ancora, di tanto in tanto, pubblicava i suoi scritti. Le disse di spogliarsi e Xenyushka si imbarazzò della biancheria dozzinale, se solo avesse saputo. Ma già Lello le ordinava di rizzarsi in piedi, osservava la postura e, inarcando un sopracciglio, le prescriveva piegamenti e torsioni. Scontento della scarsa tonicità di tutto il corpo, critico per gli effetti delle irregolarità di due decenni. Poi si occupò del suo torace, le bussava le spalle e le sue mani erano calde, asciutte, ferme. I pochi altri medici della sua vita non l'avevano toccata mai, al più la palpebra scostata per confermarla anemica. Poi gran malanni non ne aveva avuti e a tutto aveva provveduto alla buona e per risparmio sua madre. Ora Lello, medico della Real Casa, si occupava di lei così nei dettagli. Le faceva domande impensate di attitudini e abitudini, le regalava attenzione e competenza. Si sentiva già meglio. Essere nei suoi pensieri, rispondere alle sue parole, era corroborante più di una medicina. Per scrivere la ricetta, Lello sedette al tavolino ingombro di libri. Stanco di una giornata lunga, appoggiò la fronte alla mano. Accese la lampada in bilico sulle carte per vederci meglio. Il primo bottone del panciotto era abbottonato male. Il colletto rigido per i molti impegni della giornata si era afflosciato. Lo stetoscopio sul petto lo confermava medico. Ma intanto ogni cosa di lui era omogenea alla casa, a quella stanza, alla voglia che aveva Xenyushka di quotidiana normalità. Xenia rientrò, salutò Lello e lo ringraziò. Insieme parlarono dei malanni di Xenyushka e del da farsi. Scomparve l'atmosfera raccolta e amorosa di quei momenti, frantumata. E Xenyushka avrebbe voluto per magia far scomparire sua madre. Con cappello e pastrano Lello tornava al suo mondo. Porgendogli i guanti e i saluti per Alfonsa, Xenyushka sperò di ammalarsi ancora. Forte della nomina a direttore della sezione di fisiologia del prestigioso Aquarium di Napoli, Enrico offrì a Lello i propri contributi ai suoi studi sulla malaria e intanto andava perdendo per sempre il primato e la primogenitura. Il grande salto ad essere accettati fuori dal ghetto a pieno titolo, cattedre universitarie e cariche pubbliche, essere uguali agli altri e migliori, l'avevano compiuto già prima, come altri, Lello ed Angelo suo fratello. Dunque anche la possibilità di essere famosi per scienza era in sé un fatto non rilevante, anzi quasi scontato. Il suo occuparsi di politica, pur nei rischi di un'Italia imbavagliata, in famiglia non raccoglieva un apprezzamento particolare. Alfonso era convinta, e anche in seguito non avrebbe smesso di pensarlo, che la politica fosse cosa comunque sporca, da cui tenersi lontani per non venirne insaccherati, e la disturbava che a tavola se ne parlasse. E poi l'intera famiglia, per il fascino esercitato dal grande sogno di Enzo e Mimmo, che a tutti avrebbe dato lustro, non aveva pensieri che per la Palestina. Ermelinda raccoglieva fondi, Lello accantonava medicinali, Angelo tesseva la rete di opportunità che potevano servire nell'avventura. Tutti partecipi ed anche preoccupati del romanzo che Enzo aveva già cominciato a scrivere. Per Enrico si limitavano ad auspicare una sposa, ma senza che la normalità un po' ingrigita di lui prendesse più spazio che tanto nei pensieri. Enrico non dava mostra di soffrirne, anzi provò a raccontarla come una vittoria, una scelta compiuta in piena autonomia. 14 giugno 1926. Veramente solo ora mi accorgo quanto bene gli voglio. Assai più che fraterno, quasi paterno, a questo mio fratello che mi è sempre stato contro, ribelle, e che pure in tanta parte ha preso da me. È andato sulla mia strada, che forse non era la sua, o ha seguitato per una strada che io avevo abbandonato da poco. Forse alla fine, nonostante molte apparenze contrarie, il vincitore del contrasto sono io, che l'ho disarmato. Sono riuscito a fargli abbandonare il suo atteggiamento apertamente ostile dei primissimi anni, a non insistere sulle differenze, ma sulle somiglianze nostre, a creare questo tipo dei fratelli sereni che i nostri amici non possono non riconoscere nella diversità delle sue esplicazioni, fondamentalmente unitario. Certo, per questo ho rinunciato dal primo giorno al diritto della primogenitura. Ho abbandonato il privilegio per contentarmi della uguaglianza. Questo era necessario perché Enzo non dovesse considerarmi il suo nemico necessario. E l'ho fatto di buon grado, anche se spesso qualcuno abbia rilevato malignamente il fatto, non la sua genesi, e abbia in tutti i modi reso più difficile il mio tentativo. L'uguaglianza, un piatto di lenticchie misero davvero, quando la moneta in corso è la competizione. Una modestia piena di eleganza, quella di chi rifiuta di misurarsi perché persuaso che i meriti che ha lo faranno apprezzare comunque e amare. Una modestia superba e colma di rischi. A casa di Ada, la governante accolse Mimmo e i suoi fiori con cipiglio lugubre, rispondendo con monosillabi reticenti alle domande che lui le poneva, preoccupato per la salute della ragazza. Ada era distesa sul canapè, tre cuscini a sostenerle la schiena, le gambe riscaldate da un plaid che parve a Mimmo molto elegante. Aveva gli occhi gonfi, le occhiaie profonde erano da donna. Mimmo non sapeva come chiedere, la sofferenza così evidente di Ada gli seccava le labbra. Si sedette accanto a lei, le carezzò una mano. Pensò di utilizzare le nuove acquisizioni della maturità per darsi un contegno. Tirò fuori il pacchetto di sigarette dalla tasca della giacca. Ada guardò le sigarette con orrore. Poi si passò il dorso della mano sugli occhi, sofferente. «Per piacere», disse piano, come per la paura che l'anima le fuggisse via col fiato. «Il fumo non riesco proprio a sopportarlo». Mimmo non capiva, ma obbediente ripose il pacchetto. Ada si sentì in debito di spiegazioni, benché lui non osasse chiederne. È per la tosse, sai. Non mi dà pace. A lui non sembrava raffreddata e colpi di tosse da quando erano lì non ne aveva sentiti. Comunque era venuto per farle compagnia e perciò si mise alacremente a raccontare i progetti con Enzo per la Palestina, gli studi di russo e di ebraico che procedevano veloci. Ada lo osservava parlare, infervorato, con quella determinazione che aveva a plasmare il mondo con le parole. «Ti voglio molto bene», gli disse di slancio, con l'ansia quasi materna di proteggerlo da se stesso. Mimmo, rosso fino alle orecchie, sentiva il bordo della camicia stringergli la gola fin quasi a soffocarlo. Ada si accorse della difficoltà, tentò di riprendere il discorso là dove lui l'aveva interrotto. «Dai retta a me. La prima ebrea russa che troverai te la sposerai», vaticinò con ironia, e intanto accennava a scompigliargli i capelli, il solito ricciolo che gli era calato sulla fronte. Mimmo si ritrasse bruscamente, disse che doveva andarsene, era ora. Ada non provò a trattenerlo, lo sapeva pieno di impegni cui si sottraeva malvolentieri. Quando fu sulla porta, dal canapè gli fece molti ciao con la mano. «Salutami Enzo», si raccomandò. «Salutamelo molto». Mimmo riuscì a non sbattere la porta, uscendo. What's up?